Soprattutto sì. Cioè a questo uso dell'italiano o della lingua o del linguaggio in genere, tutto molto assurdo. Io non so se il vostro bagno è allogato all'interno di una piccola bibliotechina, ma immagino di no. Il vostro bagno è identico al mio. E le lunghe sedute fisiche in bagno sono tragiche, specialmente quando non hai niente da leggere. E quando non hai niente da leggere, cominci a leggerti le istruzioni dello shampoo, della crema anti-aging, poi finito in bagno, ti lavi le mani, vai a farti la merendina e incappi nelle stesse strofate sulla scatola dei biscotti, sulla scatola del cacao. Assolutamente inutili, perché sono scritte a caratteri piccolissimi e inutili nel loro cercare di convincerti, perché il prodotto che hai per le mani è già comprato. E quindi cosa cavolo è servita questo tentativo? E poi a ricomprarlo, sì. Tutte le volte scritti in un linguaggio che è assolutamente insultante per la tua intelligenza, con dei concetti rabbrividenti, non puoi stare tranquillo. Io non riesco a stare tranquillo di fronte a attentati alle tue gonadi, al tuo modo di sentire, di provare le impressioni. Per cui, ma questo è un fenomeno specificamente occidentale, visto che c'è questo sottotitolo, il sogno occidentale. Cara futura lettrice, io la inviterei a non prendere troppo alla lettera i titoli dei libri, perché i titoli dei libri spesso e volentieri sono soggetti anche ad altre leggi, oltre a quello di essere meramente illustrativi dei contenuti. Devono essere abbastanza evocativi, devono peccare il viandante distratto, devono... Io sono convinto che a un cinese girano i coglioni per altri motivi, non posso essere io il cantore dell'incazzatura orientale o di ogni sogno orientale. Beh, direi che comunque le cose più grandi sono del nostro mondo occidentale. La cultura, il consumismo, i finti valori, i valori farlocchi, c'è un racconto, un piccolo esempio, sempre nel racconto scorso dei prodotti sfiziosi con tanta morte, perché poi la gente parla così, leggi i prodotti sfiziosi. Questa napoletanizzazione progressiva dell'italiano. Era uno, adesso non lo ricordo. Sì, infatti avrei letto non sono questi prodotti, perché in realtà tu hai preso esattamente le frasi dei prodotti, lo sembra, quelle tipiche, ma hai rimontato e scottalizzato. E non c'è avuto modo. Allora, io vado per puro caso a beccare, non so se vi capita, questi fogli dei supermercati in cui vengono magnificate le doti dei prodotti che ogni settimana vengono presentati, sempre diverse dalla settimana precedente, perché paghi offerte speciali, così. Sì, e ogni volta, non credi ai tuoi occhi, perché sembra che ti vengano offerte, non so, il trucco per sopravvivere per sempre, la ricetta della felicità. La ricetta della felicità nella quale io per puro caso sono andato a sbattere è farmacotto. Ehi, ma che bontà in cucina. Poi un conto è leggere, un conto è andare a leggere, un conto è sentirselo raccontare da me adesso, un conto è leggerlo, perché adesso un po' con la non recitazione, un po' con la lettura, viene azzerato l'orrore dell'andarselo veramente a leggere. Cara farmacotto, io sono andato a fare la spesa con mia madre, quindi naturalmente le virgole, gli acapi, la consecutio tempo salta, perché non sono cose che giudicate di una certa importanza. Mi sono preso con mia madre e come al solito nel suo carrello non ci sono finiti solo i prodotti che mia madre aveva intenzione di acquistare, ma anche altri che le ho chiesto io di acquistare. perché mi piacciono molto i booster e come vale per le merendine della farmacopea, mi piace sperimentare sempre prodotti di marche diverse da quelle che ho già provato. Ho messo nel carrello della spesa anche questi buonissimi booster farmacopeo, cioè un continuo pilotatissimo, scritto da qualche demente di qualche agenzia, che ha ricevuto l'ordine di magnificare i prodotti della farmacopeo, ma lo fa assolutamente da brocco. Tu lo leggi e di una cosa sei certo, che i booster farmacopeo non li comprerai mai, se hai un minimo di amor proprio nei tuoi confronti, capito? Ed è un libro tutto così, un assalto lancia in resta, un ignorante di idiotia che ci circonda, di quali purtroppo però, in quanto callosi, ormai non ci accorgiamo più. È un continuo il trucco, la cornice, come ci spiegavano al liceo. Il filo rosso, come dicono i corti, che lega questa follia, è dovuto al fatto che il mio computer, che io chiamo VUVU, è il mio mandante, che mi manda in giro per il mondo a recensire svariati aspetti della realtà. E poi devo tornare, dopo questi indagini, questi reportage, a riferirgli i risultati di quello che io ho scoperto o che ho tenuto di scoprire. E questa cornice mi ha consentito di arrivare ad ambiti che peraltro non avrei mai sospettato. Cioè, io che mi reputo uno schiavo del computer e che odio come l'eroinomane o dell'eroina la serina, allo stesso livello, mi rendo conto comunque anche che il computer può essere un buon mandante, nel senso che scorso, c'è anche riuscito a portare, a vedere al mondo. Cos'altro c'è al mondo, perché uno schermo allucinante, cilestrino. E in questo senso, sentendomi molto, molto in colpa, invece che uscire dalla stanza, sono entrato in me stesso. Non credo di casicare i giorni, la notte. A proposito di computer e la tua tossicodipendenza, da un po' di tempo, e ultimamente sulla Facebook di più, sei presente in internet in una maniera tipicamente internetiana e anche scorsariana, cioè da incazzato, da brontolone, da provocatore e con ironia, con... E com'è? Che rapporto c'è tra lo scrivere qualche cosa di ironico e provocatore su un libro, in un libro, e invece farlo in internet? Dove devi, c'è anche un rapporto diretto. Devi avere coscienza dello strumento che stai usando. Il libro che tu stai scrivendo, sempre sperando di vendere 2 miliardi di copie, ma comunque stai scrivendo, stai inseguendo un rapporto uno a uno tra te e il tuo lettore, è un rapporto con te, è un rapporto con te, è un rapporto con te, non con tanti. La rete è diversa, è difficilissimo ripetere questo meccanismo. Così come in una delle mie vite passate andavo a Radio Alice a parlare ai microfoni di questa radio, non sapevo chi mi ascoltava, non sapevo se c'era qualcuno che mi aspettava al varco, ed era un buco nero nel quale io mi immaginavo o speravo che ci fossero ascoltatori, se non addirittura orecchie attente. La rete è più o meno così, parli al buio, devi sperare che sia qualcuno che... è giusto sbagliato. Dopo aver letto i consigli per gli acquisti. Sì, non ero io. Devi sperare che sia qualcuno che ti ascolta, ti valuta, sia d'accordo con te o faccia le pulci. Ed è un rapporto abbastanza diverso dalla scrittura, e comunque sì, diverso dalla scrittura. Cioè, nella scrittura te ne puoi permettere tutti i colori. Poi, come posso dire, se mi capisci ok, se non mi capisci colpa. In internet anche quella è comunicazione, è una funzione diversa, devi avere per forza dei livelli più bassi. È una sorta di alfabetizzazione prima della tua grammatica che stai presentando agli altri. Col libro gliela imponi, internet della presenza. Allora, due domande. Una mi sembra che te vai in vicino, ma comunque molto più facilmente non ti rivolgi a tutta l'Italia, ma in realtà a 10 persone che in quel momento ti rispondono, a 2, a 3, a 5, a 15, quindi è più diretto. L'altra cosa, non hai l'impressione che a volte sfugga di mano, ti sfugga di mano, mentre sullo scritto lo rileggi 100 volte, lo rifai, ce lo rimandi, dici no, ancora una parola, lì invece scritta manent, ma anche volano veloci, e quello che hai scritto hai fatto clic, invio. Questo tra l'altro è vero per tutti, anche nelle mail molte volte no, piace invio e improvvisamente si pente, ma non può più neanche andare a scavare nella cassetta della posta o pregare il postino di ritargli la lettera. Sì, no, sì, è vero, è andata. In realtà per esempio su questi nuovi strumenti dichiarazioni d'amore o insulti. Sì, su questi nuovi strumenti di conoscenza degli altri, come può essere Facebook e altri, ti è data un po' la possibilità di tornare indietro sulle tue cretinate, non più di tanto, però qualche pentimento, qualche pentimento ti è consentito. Io per mille motivi che non vi sto a illustrare, io ho perso due o tre siti che mi ho costruito in maniera molto faticosa, molto spettacolare, molto, molto puntuali, mi descrivevano alla perfezione, me li sono persi, conoscevano, ma non sempre per colpa mia. Ho usato come Facebook non tanto come una vetrina personale, fare la ruota io qui e io là, quanto una sorta di riscrittura della possibilità di avere un sito più che un blog. E lì lo fai raramente con le immagini e più spesso con la scrittura, anche se definire scrittura è abbastanza riduttivo, perché è abbastanza generoso, sì. Perché più in là delle due o tre righe non vai, devi essere svelto a restituire i concetti che vuoi siringare ai tuoi nemici, sono dall'altra parte pronti a beccarti il volo. E qualche volta, specialmente quando mi accorgo che queste discese di botte e risposta delle bacheche, c'è il tizio che non sta capendo nulla di quello che succede in quel momento, che irrompe come una mosca estranea, e quello lo cancello. E tu non sei facile, non si fa, sei maleducato, e comunque a te non capita mai di pensare o di accorgerti di essere tu quello che in altre conversazioni, non le tue chiaramente, arrivi e non hai capito di cosa stanno parlando. Nella mia vita passata ero un famosissimo autore, ma proprio a livello massimo, soprattutto come qualità delle storie, non tanto come, ahimè, come qualità del disegno, proprio perché non avendo un mestiere lo sono voluto creare. Il fumetto, per quanto strano possa sembrare, è una grandissima scuola di scrittura. In poche frasi devi essere così bravo da compendiare quello che vuoi dire. Non devi annoiare il lettore, perché come minimo sei certo che la volta dopo passano a leggere quelli che sono 5 pagine dopo. La concorrenza, terribile la concorrenza, devi cercare di farti rispettare e di non distrarre il tuo lettore dirottandolo su altro. La creazione delle immagini con la matita e contemporaneamente il rendere parlanti queste matitate, chiamiamo così, con dei dialoghi, con delle didascalie, è una scuola severissima, molto dura, che per uno che poi decide di saltare nella tribù degli scrittori, gli torna utilissima, proprio preziosa. Come esperienza, sì, perché poi ti rimane la voglia di raccontare, tipica dell'autore di fumetti, noterete per esempio che non mi sentirete mai stasera parlare, dire odioso bravo fumettaro o fumettista, che è ancora più sicuro. Autori di fumetti, non ci sono scorciatoie per questo concetto. Bisogna consentire la lingua di annodarsi. Autori di fumetti. L'amore che hai nel confronto del raccontare, del suscitare nei cervelli altrui, che sono i tuoi lettori, delle immagini, prima l'avevo con la matita, adesso con la tastiera del computer, ti rimane. Quella capacità che ti è stata ceringata dalla lunga diurna frequentazione con i fumetti ti rimane, non te la dimentichi, e viene buonissima per la scrittura. Questa immagine, per esempio, non a caso è stata scelta da lei, io con la santa contrario, perché comunque illustra uno dei racconti del libro. Io vengo assoldato da una primaria ditta di tarocchi italiana che mi chiede di fare dei tarocchi, e questa è la morte, il mio concetto di morte nei tarocchi. Poi leggerete il resoconto di come è finita questa mia avventura, ovviamente malissimo, perché non sono mai capace di obbedire agli ordini dei casi, non sono un cretino, se ne fa. Dormo la notte, però sono anche qui. E anche quello mi è servito come descrizione di pianeti a me abbastanza estranei comunque all'esperienza di molti, il pianeta della piccola editoria, in questo caso dell'editoria di Tarocchi. Per quanto è importante, quasi una multinazionale, perché vende tutto il mondo, quindi ho perso l'occasione di essere presentato sulla rete internazionale facendo il cretino con loro, però è stato più forte di me, non ce l'ho fatta. Essere cretino di me. Sì, mi viene proprio. Scoprirete che ho sempre il cretino Scorsari, ha sempre delle motivazioni e soprattutto ha sempre ragione. Ma il libro adesso come sta andando? No, ma è nuovissimo, non è. Sì, ma qualche recensione mi sembra che sia falsa. Sì, sì. Ma qualche segnalazione mi pare. Ma non, di me non posso. Però è veramente molto. Su Repubblica, può essere che abbia qualcosa? Su Repubblica di Bologna, sì. Sì. No, mi è andato del romagnolo e la prossima volta che lo incontro mi fa. Repubblica ho trovato che? L'altro giorno leggendo Repubblica. Qual è il refugio? Non me lo ricordo, ma proprio un errore di grammatica. Ah beh, no, ma l'errore più marchiano che hanno commesso, e la cosa mi ha fatto investire, perché il tizio di Repubblica che mi intervistava, a cosa, tanto per non fare dei nomi, e mi conosce da 35 anni e sa benissimo che io sono bolognese fino ai calzini, e che per giochi strani, croci della vita, sono finito in Romagna da ormai 30 anni, ma con la Romagna non c'entro niente. Nel resoconto di Repubblica sono romagnolo. Ma ti ha trattato da traditore, forse? No, è pro romagnolo. No. Sta avendo libertà. No, un tuo scatto da giornalista. Io, per mia, piccolo inciso, per mia fortuna, assistetti a una rapina con morto a Bologna, un gioielliere che sparò la schiena al rapinatore che stava già scappando con un pugno di catenine d'oro in mano, con un bottino, un lato di polli, un 25 anni fa. I resoconti sul resto del carabinieri, ma io dove cazzo ero mentre succedeva davanti a me? Non capisci, ancora non sono riuscito a capire per quale motivo sia così difficile restituire la realtà quando scrivi per un quotidiano. È allucinante. E l'ho per la miliardesima volta sperimentato con me e sono diventato romagnolo. Ma questo potrebbe anche essere non importante, non lo è affatto. Ma nel corso dell'articolo hanno ribaltato di 180 gradi il mio pensiero. Non mi ricordo, comunque invece che dire che tengo per il Bologna, non so come si è reso scritto che tengo per la Juventus. Però la domanda succede, è per quello che non dormi la notte, che cerchi di inventarsi un'arma, e io già in altre occasioni ho detto che il libro è un libro, è l'arma dei totali vigliacchi, perché è una bomba atomica nelle tue mani, e ti puoi consentire di scagliarlo contro i tuoi nemici, quelli che odi più, sapendo in anticipo, perché la chiamo l'arma dei migliori, che è difficilissimo che il tuo nemico possa controbattere ad armi pari. Come minimo deve convincere un editore, deve scrivere un libro, poi sbattersi in giro per l'Italia, cercare di convincere un editore a pubblicarlo, baciato dalla fortuna, è impossibile rispondere a qualcuno che ha il suo libro, quindi io sostengo che la vendetta è un piatto che va mangiato caldissimo. Sì. Appena può. Il sangue siciliano che è in me, la metà siciliana che è in me, recalcitra questa mia teoria, però non sono capace di aspettare. Senti, ma quali sono le cose che non ti fanno dormire e che ti danno queste occhiaie profonde? Beh, allora... ci sono alcuni... Vabbè. Sì, certo. Ho notato che ci sono un po' dei gruppi in fondo di cose. Sì. Dalla comunicazione, il linguaggio, la... Ci sono alcune cose di vita vissuta, per esempio vado a vedere il sommario, Scott e la rosca dei sette laghi è un lungo pamphlet contro l'Argentina, di quello che è successo in Argentina, di come ha cercato di aggiustarla, non riuscendoci. Le mamme sono ancora questa frette bianche, sì, sono ancora là che mangiano. Dell'Argentina di sì, Giovanelli. Ma c'erano arrivati, eh. Scorza all'ospedale, è un mio racconto non tanto inventato contro le pratiche di pessima sanità che vengono in nome dell'aziendalizzazione dell'ospedale portate avanti per cercare di guadagnare il più possibile in termini di potere e di soldi, fregandoci nella maniera più totale dei pazienti, i quali sono costretti a sottostare alle politiche e alle menate dell'ospedale, inteso come castello medievale, contro i quali tu, povero porco mortale, non puoi far nulla se non subire. Io, che sono scrittore di valica, molto insomme, questa volta ho la possibilità di scrivere. Ed è un fatto vero, ho vagamente storpiato i cognomi. Scozzeri vigili, quasi sempre del capo. Questa è un racconto dettato dal fatto che beccai una muta totalmente inventata. Andando a mare mi fece una muta per parcheggio ritardo, scatenai il casino. Quando il cittadino viene beccato sapendo che lui sa benissimo che è innocente, dentro di lui cominciano a ruggire mostri di cui forse avete un'idea. Io ne ho molti, per cui li metto tutti a lavorare, a scrivere il libro, mostro. Una mattina, un'estate, esco e mi trovo la casa completamente ricoperta di mosche schifose, con una puzza nell'aria allucinante. Voi sapete cos'è la pollina? È la cacca di galline. Un tizio aveva un pollificio a una ventina di chilometri da casa mia, qualche cretino gli aveva chiesto se la cacca di galline che risultava da questo suo pollificio la poteva venire a spargere sui suoi terreni, che sia un concime favoloso, naturale, non chimico, sano, da un certo punto di vista, favoritario. Dura per 3 o 4 giorni la puzza della cacca di galline. Questo niente, il problema è che richiama mostri a pintari, per cui tu vai in comune, ti incazzi, ti non porta niente perché ti chiedono una faccia pasta, troppo piove, ci tiene. Allora, ecco un'altra occasione per scrivere le tue bestemmie. Il tizio ci difende, dice, no, io ho il patentino per la. Mi consente di il trattamento dei liquami. Vabbè, ma il trattamento di quelli è venire a casa mia, la fanculo. Adesso ti scrivo un libro, una cosa. Ma è così. Poi prendete un'altra, per puro caso, perché io non sono mai dopo queste feste, mi sento che mi piace mangiare da me, non sono per fuori caso. Navigando in internet vado a sbattere contro un sito, evidentemente, che inneggiava a Laura Pausini. Ripresomi dall'infarto, ho cercato di andare a caccia di altri elementi e cercare di capire per cosa di volta in volta andavano fuori di testa. E universi di biochia che non mi sto a descrivere, sono insondabili, utilissimi per capire per quale motivo siamo nelle mani di Berlusconi, utilissimi per capire per quale motivo prodotti schifosi tipo il Grande Fratello sono portati così tanto in palmo di mano, così siamo a settima, ottava, decima edizione, poi tutti gli altri paesi del mondo affetti dalla stessa spia, per questo è un format importato da altri paesi, non è una invenzione italiana. E quindi uno come fa a stare tranquillo? Comincia a scrivere, almeno mi sfogo, che cazzo. Forse ho la speranza che stanco molto e quindi nel racconto riesco a dormire. Che cos'è che non va in me? Perché odio la cachettica anoressica Andrea Mirò? Non sarà mai qualcuno, muore molto prima. Allora perché la odio così tanto? E quindi è tutta una bestemmia, Laura Paolini, Dio quanto odio un giornale, alla sua guida poco tempo fa c'era tal Giordano, poi sostituito da tal Feltri. Che sia per queste ambedue cose, io poi mi diverto a usare un italiano così sgrenco, perché non è altro che la lingua dei nemici. Esplicitando questa broccheria nella trasmissione delle idee dovuta al come usi l'italiano, ho la vaghissima speranza, ma dai lungo proprio, che almeno qualcuno si accorga che quell'italiano è da abrogare e fondare una nuova lingua un pochino più elegante, un pochino più utile ai nostri scopi, che è quello di uccidere gli stronzi. Quanto odio il giornale, la sua guida poco tempo fa c'era tal Giordano, poi sostituito da tal Feltri, che sia per ambedue queste cose, per queste ambedue cose, eppure di carta, a pagina era sposina al punto giusto, in grado di reggere la seconda passata. Alcune sono stampate, cosa c'è che non va? Poi da solo, c'è che non va. Questo racconto è iniziato dopo che abbiamo dato la notizia che gli idioti della Folgore, questi miti del cazzo, avevano massacrato dei civili in Afghanistan. Data la notizia, subito dimenticata, perché non c'è mai nessuno che commenti queste puttanate. C'è scorta che si permette. Che cos'è che non va in me? Perché la Folgore mi sta sul cazzo? Almeno lo dico, mi fa sul caso. No, sono degli assassini, terribili. Ma vengono definiti i nostri ragazzi, sì, ma cos'è che li definisce, no? I nostri voliti. Sì. E quindi quando hai un obiettivo da perseguire, perché sei stato siringato da nottate insonne che devi far pagare qualcuno, devo confessare che un libro è anche abbastanza facile da mettere in film, da mettere insieme, perché in realtà tu sei un amanuense che dà retta agli impulsi esterni. Non è un libro vecchio stile di star lì a sudare, adesso potremmo dire cosa faccio. Sarà dura la prossima volta, che già ho esaurito la mia cantina, sì. No, ci sono anche una parte, mentre questi sono tutti segni di stupidità, mi sembra che ogni tanto da una parte ti incazzi sulla stupidità e dall'altra quasi con te stesso, dove c'entra di più l'erotismo, il sesso, c'è quel racconto delle mutande bellissimo dove vai a cercare. Sì, perché anche il sesso... Perché è come se tu fossi un pochino più debole lì rispetto al giornale, alla pubblicità, no? Il sesso sono fortissimo. Ma proprio, guarda, tu non hai un'idea. Soprattutto pensando al fatto che anche e soprattutto il sesso, mai come altri campi dell'umano agire, è assassinato da... grumi di idiozia comportamentale, linguistica, sociale, assolutamente allucinanti, mi viene da dire praticamente inguaribili, per cui in questo libro ho cercato di riportare a galla un minimo di saggezza, sia con i temi trattati, sia con il linguaggio, sia con il divertimento, perché certamente non ho voluto pistare sul pedale per 250 pagine di per incazzare. Se risulta, rischi di essere poi l'impiegato che con il bastoncino picchi i bambini che fanno casino per le scale di caseggiata. Ti portano alla neuro, lì è chiusa, la tua battaglia è chiusa, no? Lo devi essere un po' compagnone. No, sono molto allegro. Specialmente quando sto strangolo, rido moltissimo. Devi essere alla mano, allegro, sboccato, ragazzino. E in questo caso mi è venuto in mente cosa mi potrebbe succedere se io possedessi l'arcivernice. Voi sapete cos'è l'arcivernice? Mi sa che... Ma perché non avete letto? Avete letto fumetti da bambino? Ma non erano da... Ah, vabbè, sì, ho capito. Non siete stati bambini. No, allora, l'arcivernice non è il momento giusto, era, comunque lo spiego, l'arcivernice era una sostanza che un personaggio dei vecchissimi fumetti del Corrierino dei Piccoli spellava, siccome era un fumetto del dopoguerra, quindi c'era una gran fame in giro per l'Italia, quindi più delle volte spellava sulle figure dei tacchini, sulle ricette, sui quadri di Bagoni, quindi li portava, era una vernice tridimensionalizzante, quindi la spargevo sul tacchino e veniva fuori un tacchino vero che potevo mangiarmi. Naturalmente erano storie odiosissime, molto semplici, sotto ogni vignetta c'era la didascalia in rima baciata, terribili, nauseabonde, che io già da bambino odiavo, però era un vecchio modo di fare fumetto che stava sparendo proprio in quegli anni, però io per mia sfortuna sono stato incrociato proprio lì. E, insomma, comunque mi sono chiesto che cosa mi succederebbe se io, felice possessore di Ettore di Arce Vernice, questa vernice la potessi spennellare su una rivista porno. Non una rivista porno, perché spiego perché odio le riviste porno, su una rivista di sole donne nude. Cosa mi succederebbe se di colpo nella mia stanza venisse evocata in carne e ossa una negra americana di 2 metri che comincia a guardare così? Non vi dico il delirio, perché poi tu ti inventi la cosa, poi è difficile scriversi il programma del dove andare a parare, come va a finire. È una recita a soggetto, te la pensi, te la dici, te la fai, non sai dove cavolo andrai a parare. E lì è il divertimento della scrittura, è rarissimo incrociare in benedizioni di questo tipo, perché in genere è una miniera di zolfo, che non auguro a nessuno. Comunque mi sono divertito a immaginarmi quali sono le disavventure, perché poi mi sfigate sempre, quindi non è mai un lieto fine, quali sono le disavventure che capiterebbero al tizio che avesse la pessima idea di verniciare la foto di una troia negra americana? È meglio sapere. è questo, in questo racconto, chi lo legge, io voce narrante faccio, e voce scrivente, ma non io autore, mi tengo ben lontano dal mio personaggio, che pure si chiama come me, fa una figura assolutamente schifosa, perché finisco la cosa dicendo la Cirenice non è il paradiso e nemmeno l'ospedale, è una lente, riesce solo a chiarire che faccio parte del disastro, ma che Goethe è una rivista stupenda. Quindi pur capendo quanto sono cretino, non riesco a guarire da questa mia cretineria, non ci riesce nessuno. È in questo senso che dicevo che in questi racconti mi sembrava che una parte dell'insonnia fosse anche provocata da te medesimo. Sì. Te medesimo personaggio, sì, no? Sì, certo, no, certo. Geniale autore. C'è stato, non so chi di voi sia appassionato di giochi al computer, c'è stato fino a pochi anni fa una certa Mara Croft, una guerriera, un'eroina alla Indiana Jones, però una Lara ragazza. La chiamo Mara Croft, quindi come si chiama? Lara. Che io qui vedo, quella del dottor qui vedo per alcuni in maniera selvaggia, ma è solo un pretesto, perché in realtà prende in maniera selvaggia e da insonne, da scontento, per come si è andato configurando l'universo assolutamente idiota dei videogiochi, che più che sparare, cercare di staccare la testa al nemico, o battere in gare di automobiline corazzate con motori d'astronave, mi chiedo intanto perché sia sparita l'intelligenza da questo tipo di intrattenimento elettronico, e poi mi chiedo ancora più amaramente, ma perché è sparita anche la sorca? E qui fornisco alcune risposte. La principale delle quali è che comunque sono i soldi che comandano, quindi oltre all'idiozia di chi mette in campo questo genere di intrattenimenti, perché attraverso questo e altri racconti vi illustro il fatto che così come la televisione, anche lo schermo del computer sta obbedendo in maniera perfetta al motivo per cui è stato inventato, tenere la gente separata, gli esseri umani separati gli uni dagli altri, lontani dalle strade, ognuno fa le pippe in un solipsismo elettronico solo con se stesso, e quindi più siete separati, più siete governabili, meno andate per le strade, meno fate casino, meno molo bracciate, più noi arriviamo al governo. E non ti senti una volta che nonostante tu abbia questi bellissimi libri, però te ne stai chiuso davanti al computer? Eh no, come cazzo, no? O scrivo o vado fuori. Scusa, Tengo. No, non è che stai davanti al computer solo a scrivere. Sì, no, dai, credo che sia finita la figura della letteratura linguaiana. Prima vivere e poi scrivere, cazzo. Prima bestemmiare e poi scrivere. Hai qualche... Una volta gli scrittori avevano molto più tempo per non sai il computer, no? Io purtroppo sto scoprendo che non serve di tempo veramente. Purtroppo sto scoprendo che sia lo scrivere i libri che il leggersi è un mestiere da fannulloni, specialmente il leggersi. Ecco perché non sarò mai ricco, perché continuo. Se fossi, invece fossi un broker, un guerrafondaio, avrei un fracco di soldi, un fracco di... Ma che sei? A contare lì. Sì. E a girare il mondo in ogni modo. Ma se stai sempre a casa non giri neanche quello che potresti, dai, che ti piace guardare attraverso lo schermino. Sì, vabbè, per le poche. Diciamo, avresti uno schermino più grosso. Va bene. Domande, dottore? Ho per esempio a XXXX Ponticorne, che ha un po' per ritmo a volte dei temi, però questo è un libro molto più contento, molto più... quello XX racconti corni era una sorta di fase a racconti che ha a nemico unico, l'idiozia della pornografia, la incredibile idiozia della pornografia, quando pur facendo i maiali ci sarebbe da divertire e da fare, da dire, da scrivere e creare cose nuove persino lì. Invece questo è un libro, che attacca su molti fronti. Una delle ragioni di sconfitta di Hitler, cioè, tutti i teorici della guerra ti dicono mai attaccare su due fronti, perché perdi le gusti. Io ci provo stesso, faccio su 15, vedete. Io ti prego, ultima domanda, doppia, e poi se qualcuno ha ancora qualcosa da dire. Se stai pensando un libro, altre cose ti da scrivere, e, o se invece stai pensando, questa è una supplica, più una domanda, anche a un fumetto, e non solo per gente che c'è in sala, ma anche allora, per la famiglia, o comunque per chi potrebbe leggere anche a fumetto. Io ho abbandonato il fumetto perché al risentimento di una fandonia che mi seguiva, speravo che la scrittura fosse più facile da fare. Non è assolutamente vero, stai zitta quando parlo. Non è, purtroppo non è assolutamente vero, si suda là, si cuci sangue nel fumetto, tu lo sai, e si strassa sangue nella scrittura. Quello che mi ha fatto rimanere sulla scrittura è però che la parola scritta ha una potenza infinitamente superiore a quella della matita. Arrivi su pianeti, arrivi a esplorare pianeti sui quali non riusciresti ad approdare con la semplice ausilio della matita. E quindi questa è un'illusione. D'altra parte, che mi ha abbastanza sorretto, d'altra parte sono abbastanza pentito dell'aver abbandonato l'antico divertimento bestiale, divertimento del far fumetti.